E io ritengo che sia una possibilità alquanto remota e difficile, perché sappiamo che dopo le elezioni del 2006, quando appunto Hamas ha vinto queste elezioni, risultando a tutti gli effetti il primo partito sia all'interno della striscia di Gaza che nella Cisgiordania, Hamas è stato respinto in quanto considerato un'organizzazione terroristica. Questa è seguita una intensa lotta interna, una faida interna anche violenta nella striscia di Gaza, il cui esito è stato però l'espulsione dei rappresentanti di Fatah e di quella che è l'autorità palestinese di Abbas. Quindi, per quanto riguarda anche un livello di consenso popolare, noi sappiamo che Abbas è un leader che ha perso qualsiasi tipo di credibilità, è un leader che sta al suo posto da più di 16 anni, 17 anni, senza una vera votazione che riconfermi il suo mandato e che opera anche lui una repressione di tutto quello che è dissenso dentro i territori occupati. Dunque, per quanto ci possa essere il supporto da parte degli Stati Uniti e dell'amministrazione americana di questa possibilità, a livello fattuale, secondo me, è molto difficile, molto improbabile.